Dove son? Che miro intorno? Son di lete sulle sponde? O son questi i rai del giorno? O son questi? O son questi i rai? Seguite, compagni, e tu, Clotardo, vanne intrepido, ardito, a tentar l'altra via che ho là ti addito. Nuovo coraggio in petto sento di già ispirarmi. Si salga il monte, amici, allarmi, allarmi.